9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a 9 in punto da Simone Spezia. Oggi torniamo sui temi di politica economica perché ci sono questioni sulle quali sembrano profilarsi, oltre a quelle che riguardano la presidenza delle commissioni, come ben sapete, come ben vi ha raccontato il giornale radio, come avete sentito anche in 24 mattino con Alessandro Milan. Oltre al tema delle commissioni, naturalmente c'è la politica economica, che è la questione centrale di queste ore, di queste settimane, mi sentirei di dire di tutta l'ultima fase politica, compresa quella del governo tecnico. E la questione riguarda l'IMU. Vogliamo prendere spunto da quello che ha detto ieri il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, perché in questo modo ritorniamo su un tema che abbiamo già trattato nelle settimane scorse, ossia, visto che la coperta è molto corta, o almeno facciamo finta che sia corta, insomma, che non sia possibile tagliare la spesa in maniera energica e magari vendere asset, coperta molto corta, bisogna decidere dove mettere questi soldi. E nel decidere dove mettere questi soldi, meglio tagliare le tasse sul lavoro piuttosto che restituire l'IMU. Restituire l'IMU del 2012, oltre che tagliare completamente l'IMU sulla prima casa. Questo vi chiediamo oggi, come la pensate voi? Già ci state rispondendo sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/9in.radio24. Potete scrivermi su Twitter, Simone Spezia, oppure chiamarci all'800 24 00 24. Alberto Giorgetti, sottosegretario all'economia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori. È stato ospite nostro, lo sapete, la settimana scorsa e poi la sera stessa, chissà se gli abbiamo portato fortuna, è diventato sottosegretario. Appunto, avevamo ospite anche Baretta, che è diventato sottosegretario anche lui, quindi evidentemente, insomma, può portare fortuna questa trasmissione. Allora, Giorgetti, a me il ragionamento di Squinzi sembra molto sensato, in tutta sincerità. Ma guardi, credo che il ragionamento di Squinzi è uno dei ragionamenti importanti su cui dobbiamo lavorare nei prossimi giorni, insomma, quindi parlare però in qualche modo di scambio, adesso non ha detto esattamente questo, insomma, tra IMU e altri interventi che riguardano il costo del lavoro, a mio avviso magari è un po' eccessivo, però è indubbio che nell'agenda del governo dovrà entrare in tempi molto urgenti anche questo tipo di intervento. Noi per la verità stiamo già cercando di svolgere una mediazione a livello di maggioranza rispetto sia al tema dell'IMU, che credo verrà gestito anche nei prossimi giorni con grande responsabilità, cioè dare fiato comunque alle famiglie in un momento molto difficile di congiuntura, per non dover tirar fuori immediatamente i soldi dell'IMU nella rata di giugno. Il 2012 mi pare abbastanza complicato, vedremo se si troverà una soluzione, ma allo stesso tempo credo che possa essere messa nell'agenda delle priorità anche la proposta di Squinzi, insomma, quindi si tratta di trovare le risorse in successione e la tempistica con cui noi andiamo ad adottare queste scelte, che credo siano assolutamente rilevanti. Il fatto positivo credo è quello che si sta gestendo con una collegialità ampia queste valutazioni. Io devo dire che anche la mia prima inizio di esperienza in questi due giorni da sottosegretario, devo dire che sia nelle relazioni con il ministro che con i gruppi parlamentari, il lavoro che è stato fatto sul DEF ieri, oggi cominciamo il lavoro in commissione sul decreto dei debiti della PA, devo dire che è un lavoro a più mani e credo che questo porterà delle scelte che saranno le più condivise possibili, insomma, questa è l'unica strada che abbiamo di fronte a noi. Quindi mi faccia capire, per chiarire meglio, la restituzione 2012, nonostante l'ordine del giorno firmato da Calderoli, che è stato approvato ieri dalla maggioranza, ma si sa come va con gli ordini del giorno, non sempre vengono accolti, anzi spesso non vengono accolti, le sembra piuttosto difficile al momento, insomma, si tratterebbe di trovare 4 miliardi per un'operazione complessa. Io credo che l'operazione sul 2012 è un'operazione che noi possiamo considerare one off, quindi in realtà le risorse per la restituzione del 2012, se c'è volontà politica di maggioranza, perché magari questa è una proposta del PDL, è una proposta che noi abbiamo fatto con grande forza, ma dobbiamo ovviamente tirare fuori una sintesi di maggioranza. Ecco, la maggioranza in questo momento non è ancora totalmente, diciamo, coesa su questa scelta, ha deciso di comunque di dare un segnale per quello che riguarda la rata di giugno, quindi sicuramente di sospenderla in attesa di una riforma complessiva. Io credo che con la riforma complessiva noi potremo intanto trovare le risorse che sono ovviamente non permanenti, quindi derivanti da un'operazione straordinaria. Lei sa che ce ne sono parlato in campagna elettorale di diverse operazioni straordinarie per riuscire a incamerare risorse. A mio avviso potrà essere un argomento che verrà svolto durante l'estate dal punto di vista del reperimento delle risorse. Questa è la mia impressione. Quindi che venga abbandonato del tutto, no. Che ci sia la necessità di fare delle scelte che siano equilibrate, questo è di tutta evidenza. Saluto anche Irene Tinagli, deputata di Lista Civica Monti, docente all'Università Carlo III di Madrid. Buongiorno Tinagli. Buongiorno. Lei come la vede da un punto di vista di politica economica, strettamente di politica economica, in una fase come questa che cosa sarebbe meglio fare, ipotizzando appunto la coperta molto corta? Ma io devo essere sincera, visto la situazione veramente drammatica del lavoro, delle imprese che chiudono, della difficoltà che hanno sul mercato interno e francamente negli ultimi tempi, insomma nell'ultimo anno o due anche il commercio estero, ma non solo anno o due perché sono 10 anni, fanno fatica, io penso che le imprese, il taglio del costo sul lavoro e sulle imprese sia una priorità inderogabile. Detto questo, io capisco le argomentazioni sull'IMU nel rispetto però ad alcune fasce, questo era quello che anche noi avevamo magari detto in campagna elettorale, la possibilità per esempio di aumentare le detrazioni per le famiglie disagiate con figli a carico oppure per gli anziani soli che magari si sono vivono solo con una pensione, che magari hanno già avuto su questo fronte, però francamente 4 miliardi per togliere l'IMU a tutte le prime case, inclusi voglio dire superattici eccetera, quando poi noi abbiamo, questo c'era anche stamattina un bell'articolo sul Sole, una delle pressioni fiscali più alte d'Europa in termini di soprattutto di cuneo fiscale, ma francamente non credo che insomma sia fuori discussione quale sia la priorità, quindi io in questo caso mi trovo d'accordo con Squinzi e sono abbastanza sorpresa che anche, come dire, un partito che ha fatto della battaglia per le imprese, la produzione, il mondo produttivo, adesso invece si sia così tanto incaponito sul tema dell'IMU, francamente, ma lo dico senza nessun intento polemico, ci mancherebbe, però sono un po' sorpresa di questo, perché secondo me in questo momento le nostre priorità sono altre, sono il lavoro, sono il cuneo fiscale, sono le tassazioni sulle imprese, certamente poi non è che da solo anche questo possa risolvere la crisi dell'economia reale, ma sicuramente darebbe un grandissimo sollievo, assieme adesso ricordiamo il sblocco dei pagamenti della PA, queste sono le misure su cui noi ci dobbiamo concentrare per rimettere in moto veramente l'economia o almeno provare a supportare il lavoro e l'attività economica del paese. Tutto si intreccia come sempre, lo abbiamo raccontato e ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ospite tra l'altro proprio Giorgetti, con ovviamente le questioni europee e il nostro rapporto con l'Europa. C'è chi ci scrive, mi scrivono su Twitter, ma sentite, ma perché serenamente a questo punto in qualche misura fregarsene dell'Europa e sfondare questo tetto del 3% per dare ossigeno all'economia? Giorgetti, le sembra un'ipotesi probabile? Perché inizia a sentire un po' di sentimento, no? Anche dei nostri ascoltatori e non solo, insomma, sente tra la gente, parlando al bar, si sente questa cosa, dicono vabbè freghiamocene, dobbiamo rilanciare questa economia, mettiamo i soldi a sto punto, vabbè restituiamo anche l'IMU, però abbassiamo anche le tasse sul lavoro e via, insomma. Ma guardi, il clima lo sentiamo anche noi, insomma, io stesso, anche per il ruolo politico che ho, insomma, sto molto in mezzo alla gente ed è un tema ricorrente, insomma, c'è un sentimento diffuso che si possa sintetizzare così in modo magari non del tutto preciso, però insomma, se questa è l'Europa, meglio che ci liberiamo dei vincoli e facciamo per conto nostro. Questo è un po' il sentimento. Io credo che però nella risoluzione che noi abbiamo, che il Parlamento ha varato ieri sul documento di economia e finanza, ci siano dei contenuti interessanti. Innanzitutto la richiesta che il governo si muova su questi argomenti e che presenti un nuovo documento di economia e finanza, un'integrazione che di fatto lo va a rinnovare in modo significativo, e che porti dentro dei contenuti che puntano, al di là della questione del rigore, a un sostegno chiaro nei confronti dello sviluppo e dell'occupazione. Quindi da questo punto di vista Saccomanni sa benissimo, insieme a Letta, che la partita che si dovrà svolgere in Europa nei prossimi appuntamenti, che saranno comunque a breve, verterà proprio su questo aspetto, cioè qual è il livello di rigidità tollerabile in questo momento rispetto ovviamente ai parametri che ci siamo impegnati a rispettare. Questo argomento è un argomento che nel 2014 ci dà già uno spazio evidente, perché le nostre proiezioni danno rispetto al deficit uno 0,4-0,6 possibile di spazio comunque di PIL naturale su cui poter lavorare. C'è un altro aspetto che riguarda i mercati, ma che non possiamo trascurare, che è il famoso tema dello spread, che comunque determina un ricorso di interessi maggiore o minore per il servizio al debito, che però possono fare la differenza anche in questo momento, e la partita si sposta inesorabilmente in sede europea. Io credo che non servano in questo momento scelte azzardate, non dobbiamo dimenticare che abbiamo la procedura di infrazione ancora aperta, quindi scelte azzardate non devono essere compiute, però bisogna essere determinati, questo sì, a svolgere una battaglia in sede europea per allargare i nostri margini di spesa rispetto a quantità che, come lei giustamente ricordava, abbiamo affrontato l'altra volta, sono comunque disponibili oggi e ci sono e sono nel paese e sono in potenza utilizzabili. Quindi credo che questi argomenti nel giro di un mese avremo chiarezza sul ruolo che può svolgere l'Italia anche in sede europea per spingere insomma verso questo rilancio. A proposito dei 4 miliardi, c'è qualcuno che ritorna sulla questione Monte dei Paschi e dice: non lo dirai mai Spezia, ma i 4 miliardi per MPS erano già pronti da prestare. Adesso non so se fossero già pronti da prestare. Io vi invito solamente ad una riflessione su questa cosa. Innanzitutto, naturalmente, che quello al Monte dei Paschi è un prestito. In secondo luogo, ma guardate, non è una questione politica né una difesa, provate ad immaginare cosa succederebbe, cosa sarebbe successo se avessimo fatto fallire la terza o quarta banca del paese. E poi ne ragioniamo sugli effetti di questa cosa, su questi 4 miliardi prestati al Monte dei Paschi. E lo dico insomma, con molta tranquillità da questo punto di vista. Detto ciò, magari ci torneremo sulla vicenda MPS, perché il dibattito da questo punto di vista è aperto. Carlo ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Brevi mi raccomando, brevi. Prego. Allora, per quanto riguarda il mercato estero, abbassare il costo del lavoro significa essere più competitivi, ma per quanto riguarda invece il mercato interno, togliere l'IMU significa andare ad agire sulle tasche sia di lavoratori che di pensionati, e siccome sappiamo che la casa, oltre il 70% degli italiani hanno casa, togliere l'IMU ha una valenza di circa 500-600 euro, cosa che il costo del lavoro non ci potrebbe dare in un anno, e che anche l'IVA, l'aumento dell'IVA di quell'1% che è stato quantificato da Mestre, dalla società di Mestre che si occupa di questi sondaggi, va a incidere circa 100 euro, quindi andremo a rimettere sul mercato circa 600-800 euro, pure di più per ogni famiglia. Ha fatto bene tra l'altro Carlo a ricordare che c'è anche l'aumento dell'IVA, noi lo ricordiamo quotidianamente, ad un altro punto naturalmente nell'agenda del governo. Gustavo da Foggia, breve anche lei per cortesia, buongiorno. Buongiorno, la scelta è obbligata, non è che abbiamo scelta, il cuneo fiscale va eliminato perché è il più grande disagio del mondo del lavoro italiano, che ha un costo del lavoro troppo alto e si traduce nell'infelicità del datore di lavoro che paga per corrispondere 1000 euro al proprio dipendente, paga anche 4000 euro. Il dipendente viene corrisposto con 1000 euro, ha lo stipendio più basso mediamente d'Europa. È scontento il datore di lavoro ed è scontento il lavoratore. Cioè, se non ci rendiamo conto che non siamo competitivi né sotto il profilo della felicità, del benessere, nemmeno della produttività, noi non andiamo da nessuna parte, andiamo giusto dritto in un baratro. Grazie Gustavo, sentiamo Marco da Milano, anche lei brevissimo per favore, prego. Brevissimo, sì, giustamente solamente per sottoporre a voi due spunti di riflessione legati al mondo del lavoro. Sentivo adesso altri che stavano così parlando. La verità, ad esempio, nel caso che vivo personalmente, nell'adozione del contratto nazionale dei chimici, che tra l'altro è stato aberramente rinnovato con un 7% aumento che porterà a degli importi nel 2015 insopportabili per le aziende che lavorano. Lei è un imprenditore, suppongo. Lei è un imprenditore, sì, suppongo. Sì, sì, prego. Certo. Nel caso specifico io sono al capo di un gruppo che fattura 40 milioni e ha 1200 dipendenti nel settore chimico. Vivo un'esperienza pazzesca legata comunque alla necessità di inserire personale. Il coefficiente di moltiplicazione per definire dal netto al costo, dal netto della retribuzione al costo chiaramente che l'azienda sostiene è 2,7 nel nostro caso. Quindi, come diceva l'ascoltatore precedente, cioè sui 1200-1300 euro che è il minimo previsto dal contratto nazionale del lavoro dei chimici, sono 3.300 circa i costi che devono essere sostenuti dall'azienda, senza dimenticare il 3,9% di IRAP che indipendentemente dal risultato aziendale di chiusura d'esercizio ovviamente si abbatte sull'azienda come una scure, bloccandola sotto qualsiasi aspetto che possa riguardare l'investimento in azienda. In pratica lo Stato quello che ci sta dicendo è: più assumi, più sarai bastonato. Ed è pazzesco questo, perché in una situazione con dei livelli di disoccupazione così elevati dovrebbero essere invece incentivate la possibilità di inserire personale. E anche Marco la ringraziamo perché mette sul fuoco, per così dire, un'altra questione che tra l'altro è stata un cavallo di battaglia del PDL, ossia l'IRAP. 9 in punto. So che Irene Tinagli tra poco ci deve lasciare, quindi le voglio fare una domanda: dove li metterebbe, avendo i soldi, dove li metterebbe? Su IRAP o IRPEF, dovendo tagliare le tasse sulle persone, insomma, ecco, mettiamola così, sui redditi? Io francamente in questo momento sull'IRAP, che trovo la tassa più perniciosa, ma non è solo un'opinione mia, guardi, in realtà ci sono moltissimi studi, leggevo anche l'altro giorno una ricerca di un gruppo di ricercatori dell'OCSE dove analizzavano l'impatto di varie tipologie di tassazione sulla crescita, e al primo posto c'è la tassazione sulle imprese e sul lavoro, al secondo posto la tassazione sulle persone, al terzo posto sui consumi, quindi diciamo l'IVA, quella sugli immobile arriva proprio per ultima, guardi, come impatto sulla crescita, le dico. Poi, tra le altre cose, se dovessi proprio dare un'opinione, siccome alcuni argomentano non tanto sul reddito delle famiglie ma sull'edilizia, no? Se vogliamo far ripartire l'edilizia, più che abolire l'IMU diminuirei i costi sulle transazioni, cioè sulle compravendite, più che la tassa sull'immobile. Quello sarebbe più efficace per l'edilizia che non la tassa sull'immobile in sé. Comunque, dovendo rispondere alla sua domanda, partirei dall'IRAP. Grazie Irene Tinagli e buona giornata. E mentre invece rivolgo questa stessa domanda ad Alberto Giorgetti, magari con un accenno sull'IRAP, che come si diceva è stato a lungo vostro cavallo di battaglia come PDL. Ma guardi, noi restiamo ovviamente attenti alla questione, quindi noi riteniamo che oggi ci sia la necessità di riprendere in agenda questo argomento, quindi l'IRAP sicuramente è uno degli interventi che noi dobbiamo adottare nei prossimi tempi, ma vede, io credo che noi dobbiamo partire da alcune necessità che sono quelle che prima indicavamo, ma poi c'è il tema di una riforma fiscale più ampia. Non dobbiamo dimenticare che è stata lasciata una delega che riguardava una riforma ampia di carattere fiscale, un lavoro era già stato istruito dal governo precedente. Io credo che noi, partendo dalla fiscalità della casa, dobbiamo fare una riforma che preveda anche strumenti che debbano essere considerati in modo nuovo rispetto ovviamente al lavoro, alla fiscalità della persona, ma dobbiamo andare verso un alleggerimento della pressione, cioè l'intento di riduzione della pressione fiscale complessiva partendo dall'IRAP è un argomento che è, deve entrare inesorabilmente nell'agenda dei prossimi tempi. Del resto anche diciamo, i più autorevoli osservatori internazionali ci richiamano a questo argomento, cioè lo sviluppo come lo facciamo? Iniettando esclusivamente risorse, le poche che abbiamo disponibili o quelle che riusciremo a recuperare nei prossimi giorni, magari da una trattativa europea che possa anche, speriamo, auspicabilmente concludersi in modo positivo, o dobbiamo lavorare anche sul tema delle riforme? Ecco, le riforme, a mio avviso, sono l'altro grande argomento che possono ridare un elemento di spinta verso la crescita e lo sviluppo al paese. Ecco, tra le riforme sicuramente quello della fiscalità sul lavoro evidentemente è un tema è prioritario. Devo dirle la verità, Giorgetti, in tutta franchezza, a sentirla parlare ho quasi l'impressione che la questione dell'IMU la tenga quasi come punto politico, mentre invece sia convinto in effetti che la priorità debba andare al lavoro, al taglio del cuneo fiscale o dell'IRAP, insomma. È indubitabile che la questione dell'IMU è rilevante, perché per il motivo che raccontava prima l'ascoltatore, che secondo me ha fatto un intento molto puntuale. Oggi significa avere una disponibilità di risorse attraverso la sospensione dell'IMU e la progressiva eliminazione, che consente comunque di dare, noi riteniamo, magari ci sbaglieremo, ma siamo convinti di questo, in questo momento una maggiore tenuta alla domanda interna. Detto questo, è evidente che dobbiamo lavorare sui fattori che consentano una ripresa, ed è assolutamente palese che dobbiamo dare una mano agli imprenditori e a metterli nelle condizioni di poter assumere, di poter tenere le aziende, quindi i versanti di intervento sono tanti, quello ovviamente del costo del lavoro è uno di questi, è inutile girarci attorno. A proposito di costo del lavoro, a proposito di nuove assunzioni, Alessandro Pilato, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ha scritto un pezzo sul Sole 24 Ore, così possiamo dire, un'analisi, una sorta di conteggio nel quale ipotizza una cosa interessante alla quale abbiamo deciso di dar voce per capire un attimo di cosa si tratta, perché lei sostiene in sostanza che se si decidesse di ridurre il carico contributivo delle imprese al 50% per i nuovi assunti, in realtà lo Stato e la stessa INPS ci rientrerebbero perfettamente. Ce lo spiega molto brevemente? La ringrazio anzitutto. Prego. Ritengo che proprio il primo problema, la prima emergenza, sia quella relativa all'occupazione. Senza occupazione non c'è crescita, ma i dati consuntivi che indicano nell'11,2 il tasso di disoccupazione, ma quello che è più grave è che in prospettiva per il 2013 e il 2014 forse arriveremo a un tasso che supererà Mi scusi Pilato, i dati li conosciamo, ci spiega un po' la sua proposta nel dettaglio, per favore. Ecco, fatto considerato che oggi il carico contributivo INPS è circa del 30%, ho ipotizzato di ridurlo al 15%. Che cosa succede in questa evenienza, in questa ipotesi? In prima battuta sembrerebbe che, fatto pari a 20.000 euro la retribuzione media di un lavoratore dipendente, l'INPS ci perda il 15%, cioè a dire 3.000 euro. Sì. Nella realtà le cose non stanno esattamente così, perché ad un approfondimento più attento dell'analisi di quello che succede possiamo verificare quanto segue. Anzitutto, se si decidesse di assumere una unità lavorativa, e poi il discorso lo ampliamo per quanto vogliamo. Ci faccia un esempio su una, come rientrerebbero benissimo questi soldi, molto brutalmente. Quindi dicevo che l'INPS in prima battuta perderebbe 3.000 euro, ma il lavoratore dipendente che percepisce 20.000 euro al netto della ritenuta al suo carico avrebbe un carico in termini di imposte dirette pari a 4.337 e sul residuo imposta sui consumi, cioè l'IVA e via dicendo, per oltre 2.500 euro. In buona sostanza, già soltanto come gettito tributario in termini di imposte dirette e imposte indirette si otterrebbe una maggiore entrata di circa 5.600 euro, che coprirebbe abbondantemente i 3.000 euro che dovrebbero essere trasferiti dallo Stato all'INPS per il minore gettito contributivo. E quindi lo Stato, sostanzialmente a questo punto incassa più di quanto deve dare all'INPS, oltre 2.000 euro, ma vi è di più se me lo consente. Siccome il datore di lavoro non è certo San Francesco d'Assisi, ma lo fa, assume una unità, se in quanto ottiene quantomeno una remunerazione dei costi sostenuti, a 23.000 euro, se noi aggiungiamo una minima percentuale del 20-30% di quello che noi definiamo la ricarica, otterremmo un valore di produzione di circa 30.000 euro. Anche ad applicare soltanto l'IVA mediamente al 15%, otterremmo altri 4.500 euro di maggiore gettito. Ma non finisce nemmeno lì, perché nella realtà a questo punto il maggiore gettito di circa 10.000 euro complessive tra imposte dirette e imposte indirette e l'IVA sul venduto da parte dell'imprenditore che ha deciso di assumere, resterebbero 7.000 euro nelle casse dello Stato. Se si ipotizzasse di ottenere con questo provvedimento 250.000 unità, che è tutto da vedere, consideriamo un fatto importante, cioè dire che nel solo 2012 abbiamo perso 480.000 posti di lavoro, questo... quindi più. Questo lo sappiamo, Pilato. No, è un mi sembra che la cosa l'abbiamo pescata al Sole 24 Ore, perché ci sembrava un tema interessante quello del lavoro sulla decontribuzione. Secondo lei qualcosa, insomma, non dico di questo genere, non so se in questa misura, Giorgetti, un lavoro sulla decontribuzione è possibile oppure no, stante l'attuale situazione pensionistica, insomma, il lavoro che si è fatto sulle pensioni? Ma io penso che uno spazio di lavoro ci possa essere. È evidente che però noi dobbiamo in questo momento essere molto realisti, perché rispetto anche alle considerazioni di questo studio articolato, che darebbe appunto questi effetti più o meno indiretti, insomma, in termini di entrate complessive per lo Stato rispetto a un intervento di vantaggio fiscale, così come è stato ricordato, ecco, dobbiamo anche considerare tra gli elementi di riforma che io credo debbano essere discussi in sede europea proprio il modo in cui noi concepiamo sia gli aspetti delle coperture tecniche e come vengono, diciamo così, riconosciute in Europa le scelte di politica fiscale adottate dai governi. Vorrei essere più chiaro. Noi oggi, quando decidiamo comunque di fare un fra virgolette sconto fiscale, dobbiamo immediatamente dimostrare che c'è una copertura che va a compensare questo vantaggio fiscale, diciamo così, e quindi le entrate che si riducono certamente nelle casse dello Stato, a patto delle entrate immediatamente identificabili, quelle che erano previste a fiscalità vigente, a legislazione vigente, devono essere tecnicamente coperte. Noi sappiamo qual è la difficoltà nel presentare in Europa ogni provvedimento che possa essere un provvedimento virtuoso che determina entrate aggiuntive, cioè in cui il combinato disposto di effetti è più per le entrate dell'erario. Anche questo argomento, che voglio dire, va verificato ovviamente il ragionamento che è stato prima esposto, così come altri interventi che dovrebbero determinare maggiori entrate e quindi la possibilità anche connesso a questo di avere maggiore sviluppo, sono tutti argomenti che in questo momento noi facciamo fatica a veicolare in sede europea, perché vengono letti come indebolimento della nostra azione di risanamento dei conti e di tenuta della spesa. Questo è un tema molto interessante, magari sarà il caso di tornarci quando torneremo sull'Europa. 9 in punto. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Il primo che ho qua in lista in realtà è un ascoltatore, ma chiama nel suo ruolo istituzionale. Dino Bortolotto, presidente di Asso Provider, buongiorno, da Padova, no? Sì, esatto, buongiorno. Buongiorno, prego. Ascoltavo ed ero allibito, perché qui si parla di recuperare soldi, ma in realtà mi domando come mai non vengano fatte tutte quelle misure, le abbiamo chiamate semplificazioni nella legislazione precedente, che non costano un solo euro e quindi che si possono attuare immediatamente. Io parlo ad esempio di una cosa semplicissima, che sta comportando un rischio per ogni singolo cittadino che a casa sua installi un router, che è quindi con capacità maggiore, un modem ADSL con capacità maggiore di 128 kilobit, sta rischiando di prendere una multa da 30.000 euro per una cosa che è il decreto legislativo 198, alias registro installatori, una cosa che ha voluto il ministro Romani, il compagno di partito di Giorgetti. Allora Bortolotto, però mi scusi, siamo su una cosa abbastanza tecnica, io capisco benissimo il problema, magari troveremo il modo di tornarci anche banalmente nelle trasmissioni dedicate e magari, che ne so, insomma, se riusciremo anche nei nostri GR, perché il tema mi sembra importante, porlo così in mezzo a una trasmissione dedicata a, ripeto, IMU e tasse sul lavoro, mi sembra piuttosto complesso in tutta sincerità. Ivan da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Due cose innanzitutto. L'IMU è la solita storia della media, no? Si paga poco di IMU di prima casa, cosa volete, lasciamola. Ma c'è gente come me che ha figli e allora paga pochissimo, e c'è gente che invece paga 400, 500, 600 euro di IMU. Dove vogliamo andare con ste medie? Fanno sempre la media delle cose. Seconda cosa, sta andando molto male perché l'entusiasmo delle nostre imprese è arrivato ormai alla fine, che arrivano gli ordini, uno dovrebbe essere tutto contento, sì, beh, arriva l'ordine, ma per fare un prodotto, e dico, devo acquistare la materia prima, pagare gli operai e forse dopo neanche mi pagano. Allora questo può star bene una volta, la seconda volta, ma ormai siamo arrivati che è la quarta, la quinta volta che i nostri impresari acquistano le materie prime, fanno lavorare la gente e dopo non vengono pagati. Ragazzi, non si può più andare avanti, bisogna togliere l'IRAP, bisogna, e l'IMU va rivista proprio in questo caso. Grazie Ivan. Sì, l'IMU va rivista, lei dice, per i capannoni, sostanzialmente, diciamo così, fabbricati strumentali, insomma, quelli delle aziende, questo mi sembra di aver capito. Gianmaria da Milano, brevissimo. Buongiorno, la stessa cosa che stava dicendo il signore di prima. Io ho una microazienda, siamo proprietari dell'immobile, volevo assumere due nuove persone, non le assumo perché hanno triplicato l'IMU sull'immobile. Una follia, vogliono incentivare l'azienda, incentivare il lavoro, e mettono le tasse sugli immobili di proprietà delle aziende, o perlomeno strumentali. È una follia, cioè io ho sempre votato centrodestra, ma il problema dell'IMU sulla prima casa di 2 o 3 miliardi, secondo me, è assolutamente strumentale, politico falso. A me sembrava veramente di sentire degli alieni, soprattutto anche perché quando è stata tolta l'IMU sulla prima casa non c'è stata un'impennata dei consumi così straordinaria. Quindi, l'ICI dice, l'ICI, sì, si riferisce a l'ICI naturalmente. Grazie Gianmaria, io giro queste osservazioni a Giorgetti, soprattutto dal lato, perché non sono le sole due persone che ce l'hanno segnalato questo, la questione dell'IMU sui fabbricati delle aziende. E quello forse è un bel problema rispetto all'IMU prima casa. L'IMU complessivamente vale 9 miliardi e 8, se non ricordo male, quindi è evidente che nella scalettatura delle scelte che andremo ad adottare la soluzione migliore sarebbe quella dell'eliminazione tout court. Ben sappiamo qual è il costo, quindi è una cosa molto difficile, ma dobbiamo cominciare. Evidentemente, se si va a cominciare, si va a toccare, a nostro avviso, le situazioni di maggiore difficoltà. Dopodiché è chiaro che ogni scelta che si va a fare, che riguarda la possibilità di lasciare in tasca al cittadino, in particolar modo il cittadino che magari ha meno risorse disponibili, c'è il rischio, in una congiuntura così complicata, che più che andare a spesa, quindi determina la crescita della domanda, effetti sulla domanda, possa essere messa a risparmio, cioè il cittadino dice, beh, non devo pagare questi soldi, mi ritengo lì, perché visto mai che succede nei prossimi mesi, visto che il clima è complicato. Questo è un rischio ovviamente che fa parte delle scelte che possono essere adottate dal singolo, però è altrettanto evidente che comunque il tema dell'IMU insiste alla pari di altri argomenti sulla vita, ovviamente in particolar modo delle piccole imprese, proprio per il motivo che ricordavamo prima. Una cosa mi sento di escludere, siccome ho sentito tra le varie ipotesi fino ad oggi anche girare il fatto che scaricheremmo l'IMU sulla prima casa o l'intervento appunto di rinvio, in particolar modo sui capannoni delle aziende, quindi su un IMU sostanzialmente che colpisce alcune fasce piuttosto che altre. Questo lo escludiamo nella maniera più assoluta. La cosa che io sento di garantire in questo momento è comunque che il percorso sarà progressivo di eliminazione dell'IMU, si discuterà per quali fasce si va evidentemente ad adottare prioritariamente, ma certamente non andremo a caricare coloro che per alcuni mesi magari continueranno comunque a dare questo tipo di contributo. Per intanto sospendiamo quelle di giugno, poi il resto ovviamente lo discuteremo in una riforma più ampia, ma è inimmaginabile che si vada a scaricare a scaricare sui capannoni. Brevissimamente Giorgetti, veramente in 20 secondi, serve una manovra? Ma certamente per affrontare la questione dell'IVA, che è stata ricordata su più passaggi, che noi crediamo debba essere affrontata in tempi rapidi, più le altre esigenze pongono la necessità di un intervento, chiamiamolo come vogliamo, ma sicuramente qualche miliardo di euro, penso sotto gli 8 circa, dovranno essere reperiti nei prossimi due mesi, quindi chiamiamolo come vogliamo, ma io mi auguro che sia un intervento che va prioritariamente a tagliare la spesa inefficiente, questo è il nostro obiettivo. Grazie ad Alberto Giorgetti, senatore del PDL, sottosegretario all'economia, ad Alessandro Marco Tulli in redazione, Laura Faggini in assistenza, grazie a Filippo Reggi in regia, Rosa, Giulia, Eleonora al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 54 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.